La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci ancora insieme, amici, un buon weekend cinematografico da Franco D'Assisi. Questa è La Rosa Purpurea, questo è il nostro momento, la nostra ora di cinema, con tutti i film in sala, o quasi tutti i film in sala, e con le voci dei protagonisti, i suoni e le emozioni del cinema, appunto dei film. Settimana dominata nelle uscite da Twilight Breaking Dawn parte 2, il capitolo che conclude la saga cinematografica dei vampiri, che ha rivitalizzato tutto un settore dell'horror che era un po' in naftalina, dell'horror come tipo di personaggi, poi in salsa romantica per quanto riguarda questa saga, e qui qualche lacrima si è versata, insomma, alla fine della proiezione di Twilight, perché i vostri beniamini, Robert Pattinson, Kristen Stewart, hanno esaurito questo capitolo della loro carriera artistica. Chissà che cosa ne sarà di loro da ora in poi, se riusciranno ad affermarsi fuori da quei vestiti. Noi abbiamo visto il film, abbiamo raccolto le loro voci, quindi abbiamo tanto da raccontare su questo, abbiamo tanto da raccontare anche su molto altro. Tre film italiani che arrivano in sala, e quindi, come dire, c'è parecchia carne al fuoco anche questo weekend. Allora andiamo a riepilogare i contenuti principali della trasmissione nei nostri titoli di testa. Vampiri, fine corsa. Con Breaking Dawn parte seconda si chiude la saga di Twilight. Dopo 4 anni di successi e centinaia di milioni di euro raccolti in tutto il mondo. Alla Rosa Purpurea i pareri del pubblico e le voci dei protagonisti. Piombino, la sua gente, il suo acciaio. Dal romanzo di Silvia Avallone, il film di Stefano Mordini, con Michele Riondino e Vittoria Puccini. Una finestra aperta su un microcosmo di provincia, fra lotta di classe e dramma sociale. Colin Farrell, Tom Waits, Woody Harrelson e Christopher Walken sono solo alcuni dei nomi sulla locandina di Sette Psicopatici, la commedia di Martin McDonagh su una banda di rapitori di cani violenta e sgangherata, fino a quando il cane rapito non è quello sbagliato. Sentimenti negati di una giovane donna nella Tel Aviv contemporanea. Dopo gli elogi a Venezia, arriva in sala il dramma israeliano La sposa promessa, premio per la migliore attrice alla mostra per Hadass Yaron. E allora, questi contenuti, questo è il menù. Cominciamo subito con Twilight, cominciamo subito col farci raccontare quel che si può raccontare, perché non vogliamo svelare troppo per un film che, per chi non ha letto i libri, insomma, ha anche tanti colpi di scena, dalla nostra Chiara Pizzimenti. Can you keep a secret? È strano. Fisicamente sento che potrei demolire un carro armato. Mentalmente mi sento svuotata. Ho sempre avuto la brutta abitudine di sottovalutarti. Ogni volta che c'era un ostacolo, io credevo che non l'avresti superato. È grazie a te che hanno qualcosa per cui combattere. Una famiglia. Sì, sono loro, Bella ed Edward, finalmente entrambi vampiri, come da trasformazione salvifica alla fine del film precedente. E anche il licantropo Jacob non se n'è andato. Non mi aspettavo che sembrassi così... tu. A parte gli occhi da brivido. Io però manterrei le distanze per ora. È più sicuro per la bambina vedere prima come va con me. Annusa, forza. C'è una bambina, figlia di Edward e Bella. Si chiama Renesme ed è considerata una minaccia dai nemici storici dei vampiri buoni. I volturi pensano che sia una bambina immortale. È stata partorita, non morsa. Cresce a vista d'occhio. Non mi dire. Creare un bambino immortale è stato proibito da tempo e comporta la più severa delle pene. No! La morte. Cosa c'è? I volturi vengono a prenderci. Dunque spazio alla battaglia. Si combatte per la famiglia e per l'amore eterno, nel senso più immortale del termine, visto che parliamo di vampiri, per cui il tempo non passa. Where in the world's a forgotten? They're lost inside your memory. Come per Harry Potter, l'ultimo libro di Stephanie Meyer è stato diviso in 2 film, esclusivamente per motivi di botteghino. E questa seconda parte di Breaking Dawn chiude la saga dei vampiri romantici, per adolescenti principalmente e per sociologi in vena di analisi. Almeno quest'ultimo film non è tutto già raccontato nel trailer, come accadeva per il precedente, diretto sempre da Bill Condon. Al manifesto conservatorismo della saga si aggiunge qui la questione della protezione, della sicurezza della famiglia, condita dalla bellezza e dalle immagini sexy dei tre protagonisti, Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor Lautner, il licantropo che mostra i pettorali anche quando non richiesto. Dialoghi lenti, grandi paesaggi da cartolina, un po' di sesso fra vampiri, la ricerca degli immortali più esotici, in attesa dell'arrivo dei cattivi. Niente di imperdibile, anzi, però le sale erano già gremite mercoledì nel primo pomeriggio e all'uscita qualche fan è arrivata a commuoversi. Mi erano piaciuti molto i libri e quindi questa era per chiudere la storia. Poi mi è piaciuto soprattutto il finale. Il finale del libro è diverso? In parte sì, cioè spiega meno cose rispetto al film. Meglio il film? In un certo senso sì. Da morire, è stato bellissimo. Perché? Cosa è stato bello? Cosa ti è piaciuto? Tutto in generale, cioè a me piacciono tutti i film della saga. Dispiace che sia finita? Sì, abbastanza. È una cosa meravigliosa. Particolari strepitosi, stupendi, no? Dopo Breaking Down meglio i film, con Twilight ero un po' scettica. Tutto, avendo letto il libro, avendo visto tutti gli altri film, tutto. Vedi in realtà quello che hai solo immaginato, ecco, bello. Insomma, parecchi cuori infranti all'uscita dalla sala. Noi parleremo ancora di Breaking Dawn fra poco, dopo la viabilità, con le voci di Robert Pattinson e Kristen Stewart. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, Rosa Purpurea, seconda parte, Twilight, Breaking Dawn, il film della settimana, perché sicuramente lo troveremo straprimo in classifica, sarebbe davvero una sorpresa che non fosse così, lunedì nelle graduatorie degli incassi, dominate per il momento, o comunque condotte più che dominate, perché è una limatura, da Hotel Transilvania, che è stato il film che la scorsa settimana ha avuto più pubblico, seguito da Skyfall 007, che è già in sala un po' e che ha già incassato quasi 10 milioni di euro globalmente, e poi Venuto al mondo di Sergio Castellitto, parte bene, 1,5 milioni nel primo weekend, quarto posto per Argo, un'altra new entry con poco meno di 1 milione di euro, e poi Viva l'Italia di Massimiliano Bruno, che è quinto nonostante sia in sala già da un po' e si avvicina ai 5 milioni di incasso globale, che è un bel andare. In America Skyfall è partito proprio settimana scorsa, 90 milioni di dollari nel primo weekend, lì le cifre sono altre ovviamente. Si dice già che anche Twilight, che arriverà in America anche questa settimana, farà il botto e supererà Skyfall. Questo per darvi l'idea di quanta attesa ci sia a livello di botteghino per questo ultimo capitolo della saga dei vampiri. Andiamo a sentirne i protagonisti a questo epilogo, cominciando con Robert Pattinson su questo ultimo capitolo della saga. I think it's very sweet, especially at the ending of it. Penso che sia molto dolce, specialmente il finale. Mi pare che sia molto, molto vicino al libro. Si è prestata attenzione a questo, anche se ci sono cambiamenti non piccoli, anzi grandi rispetto al testo. Mi sembra che questo film sia fatto veramente per i fan della serie, direttamente rivolto a loro. E quanto invece alla fine della saga, la conclusione di questo percorso che ha visto Robert Pattinson crescere come uomo, da ragazzino a insomma uomo maturo, anche come attore, cercare anche altre strade, l'attore appunto si pronuncia così. It's strange to think, you know, suddenly in the last movie of the series. È strano pensare all'improvviso che questo è l'ultimo film della serie. C'è un enorme cambiamento rispetto a quello di cui Edward deve preoccuparsi. Ha passato 4 film pensando quasi esclusivamente a una cosa. Pensa a Bella tutto il tempo. E poi, all'improvviso, adesso ho la possibilità di cambiare la mia vita completamente. Questo è molto esaltante ed è certamente qualcosa di nuovo con cui avere a che fare. E a proposito di Bella, Kristen Stewart racconta di come questo circo mediatico che ha circondato ogni singolo capitolo di questa saga non abbia mai tolto però l'entusiasmo di tornare sul set. Twilight has a very particular tone for us. Twilight per noi attori ha un sapore particolare, sempre circondato da tante voci, da incontri stampa. Si entra poi sul set e c'è sempre la stessa sensazione positiva. Non importa se siamo stati lontani e durante la pausa abbiamo fatto altri film oppure sono passati 6 mesi o un anno. Mettere piede sul set porta sempre quella sensazione piacevole, una sensazione che mi mancherà. Prima Robert Pattinson parlava di come il suo personaggio fosse cambiato durante i film, soprattutto in quest'ultimo film nel quale deve preoccuparsi di qualcun altro, di una figlia, più che pensare sempre a Bella. E anche il personaggio di Bella cambia. Per 4 film, umana o umana tentata dal vampirismo, e adesso invece vampira madre. I think the coolest thing about Vampire Bella for me is that I got to play her as a human for so long and penso che la cosa più interessante del vampiro Bella per me sia l'aver dovuto interpretarla come umana per tanto tempo. I particolari di ogni vampiro sono fatti dalle grandi qualità di quando era umano. Quando sono entrata nei panni del vampiro, conoscendo così bene Bella, tutto ha avuto senso per me. Ho aspettato a lungo, ma quando ci sono arrivata mi sono sentita a mio agio. Non vedevo l'ora. So comfortable, like I couldn't wait. E questi erano i protagonisti di Twilight Breaking Dawn parte 2, il film conclusivo della saga di Twilight, appunto. È il momento di giocare, è il momento di cominciare a sentire, a riconoscere il capolavoro di questa settimana, davvero un capolavoro, davvero una pietra miliare della storia del cinema in Blu-ray, in alta definizione, con la quale vogliamo giocare. E allora sentiamo la prima traccia. Voglio giocare. Hai una freccia piantata nella schiena. Sì, mi dispiace, giocare. Ma sei fuori per 10 giri. Ti metti in gioco io. Io sono già redivivo, Greg. Posso lanciare incantesimi, vero Steve? Oh, no. Cercavo di darti una mano, non mordere. Ehi, perché non lanci un incantesimo alla pizzeria? Vediamo se anche in questo caso c'è chi conosce a memoria i dialoghi di questo film. Sono abbastanza convinto che ci sia qualcuno che l'ha già indovinato, l'ha già capito, l'ha già riconosciuto. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Di che film si tratta? Vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Ce n'è una copia a disposizione per il più bravo e il più veloce del sabato e della domenica. Più tardi, come sempre, avremo altre 2 possibilità. Cambiamo film, cambiamo genere, cambiamo clima, cambiamo tutto. È il bello del cinema, è proprio questa grande varietà di offerta che offre, che mette in sala tutte le settimane. A Venezia è stato presentato questo film israeliano, si intitola La sposa promessa, un film che racconta quanto ancora oggi difficile sia destreggiarsi fra i sentimenti più personali, più intimi, anche in un presente che ci sembra sempre super moderno, ma che deve invece fare i conti ancora con la tradizione religiosa, con l'influenza delle famiglie. Insomma, quanto per una ragazza circa ventenne dell'odierna Israele sia comunque difficile scegliere il proprio uomo, il proprio amore, decidere sul proprio amore se si appartiene a una tradizione religiosa particolarmente ortodossa. Questo è un po' il centro della Sposa Promessa, film peraltro portato avanti con grande sapienza registica, con grande eleganza. Sentiamo questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Shira, che cosa ne dici? È fatta, Esther! Sta succedendo! Quando vi siete conosciuti? Non ci siamo conosciuti, ma sento che è lui quello giusto. Prima di tutto, mantieni la calma. Non deve capire che vorresti urlare. E secondo... Oh! È una separazione temporanea. Mi ha consolato quando è mancata mia moglie. Unu adoi noi, osci unu! Ce ne andremo in Belgio. Uno adoi noi, azzlichi uno! Come farò a sopravvivere? Con un miracolo. E allora questo quel che succede, quel che gira in questo film. Shira, 18 anni, un fidanzato coetaneo che ha per lei un amore ricambiato, una sorella che però ha un... così come un incidente di percorso, per usare un eufemismo e non dire troppo, subito all'inizio del film. Da lì in poi si aprono porte dell'amore che non erano quelle che Shira avrebbe voluto. Saluto Boris Sollazzo che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Salve Franco, a tutti gli ascoltatori. Sì, La sposa promessa è un film molto molto particolare, molto interessante, una delle belle cose belle che sono uscite dalla Venezia di Berbera di quest'anno. Devo dire che secondo me ha una particolarità interessante, che è quella di riassumere in sé tutte le caratteristiche del moderno cinema israeliano, che è molto sottovalutato ma che è davvero in grandissima forma, perché in qualche modo c'è nella descrizione della sua famiglia, nella descrizione insomma dei personaggi marginali, quell'ironia di un certo cinema israeliano che rende i racconti sempre molto particolari. C'è poi quel tipo di riflessione sulla società moderna, attaccata però a modalità arcaiche di vita. In questo caso parliamo della comunità chassidica, parliamo di una situazione familiare molto difficile, appunto l'hai chiamato incidente di percorso, in cui Shira viene inevitabilmente coinvolta e che condiziona la sua vita, e quindi come una comunità con regole comunque antiche possa condizionare anche una donna molto giovane, con una testa anche molto, molto giovane. E poi c'è un grande rispetto della forma cinematografica, è un film molto rigoroso, molto attento a appunto la forma di regia, non sembra il film di un esordiente. In tutto questo c'è anche un contenuto molto potente, perché questa è sia una storia d'amore che in qualche modo il racconto di una società in tutti i suoi difetti, però senza giudizio o pregiudizio. Cioè si entra all'interno di questa comunità con pochissima distanza, cioè si cerca di capire quali siano le dinamiche, non si vuole attaccare e basta un dogma, si vuole veramente percorrere insieme a questi personaggi le strade tortuose dell'amore. Ecco, io devo dire, mi ha veramente molto molto colpito, è un film non facile, ma a mio parere è un film che merita di essere visto, capito e forse anche rivisto. È uno di quei film che si possono apprezzare davvero quando ne hai approfittato della visione almeno un paio di volte. Ecco, è un film, tra l'altro, dicevamo prima, che ha un'eleganza stilistica e formale, tu hai detto molto rigorosa, aggiungo anche con un tocco di quasi di astrazione in un certo senso, soprattutto questa decisione da parte di Rama Burstein di girare, di inquadrare quasi sempre con una lieve fuori fuoco, come se tutto questo appartenesse, chissà, a un sogno, forse addirittura un incubo. È un'eleganza che mi ha fatto pensare a certi momenti di Sokurov, poi magari non così estremi, ma sicuramente diversi dall'immagine globalizzata che gira in certo cinema, anche israeliano. Assolutamente d'accordo, è proprio quando parlavo di rigore, lei fa delle scelte molto precise, molto forti, molto potenti, e le porta avanti per tutto il film, anche con il rischio di allontanarsi dal pubblico, a mio parere invece lo avvicina, perché quello, in particolare quel fuori fuoco che tu hai notato brillantemente, secondo me è quello che tiene lo spettatore attaccato a una certa angoscia, a una certa emotività, a volte compressa, a volte addirittura invece esplosiva. Quindi devo dire, no, è sorprendente, pensando che tra l'altro è un'opera prima, è davvero qualcosa che è difficile addirittura da credere. Davvero un bel film, ricordiamo tra l'altro Coppa Volpi per la migliore attrice a Venezia 2012, cioè un film che non è neanche andato via dal Lido a mani vuote. No, assolutamente, meritatissima tra l'altro, perché appunto forse parlando della regista non ci siamo abbastanza soffermati su una interpretazione della protagonista che è spaventosamente bella, e anche lì non dobbiamo sottovalutare una scuola di attori del cinema israeliano che è davvero in grandissima crescita, che è sempre stata veramente ottima, ma che insomma qui si vede benissimo. Credo che sia un buon modo per iniziare a conoscere un cinema che qui non conosciamo molto bene. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Allora, questo era La sposa promessa nei cinema italiani. Boris, rimani con noi, perché fra poco, dopo la pubblicità e dopo aver dato la linea alla regia, parliamo di uno dei film italiani che arrivano invece in sala in questo fine settimana, ovvero di Acciaio. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpura, eccoci qui, terza parte del nostro programma. Rimaniamo a Venezia, è una settimana in cui stanno arrivando in sala film che si sono visti al Lido nello scorso mese di settembre, ed è il momento di Acciaio. Dicevo, tra l'altro, tre film italiani in sala in questo fine settimana, anche film, diciamo, più piccoli, magari con qualcosa anche in più da rischiare, se vogliamo, in un certo senso, però davvero interessanti. Purtroppo non c'è spazio per tutti, vedremo adesso se riusciremo anche a recuperarli, ma Ali agli occhi azzurri, per esempio, può essere un'altra valida proposta. Però era importante soffermarsi su questo film Acciaio di Stefano Mordini, perché alle spalle c'è un bestseller della nostra letteratura contemporanea, insomma, un libro di grande successo come appunto l'omonimo libro Acciaio di Silvia Vallone. C'è un background storico-sociale legato alle acciaierie, a Piombino, a una Toscana che non è quella delle vacanze, non è quella della Maremma, non è quella di Firenze, non è quella della Versilia, o in parte sì, però comunque lo è con quest'occhio al rapporto fra ambiente e lavoro, fra vita libera e vita occupata appunto da questa incombente presenza della fabbrica che un po' tutto crea e tutto distrugge fra i personaggi protagonisti di questo film. Sentiamo la clip tratta dal trailer e poi ne parliamo insieme a Boris Sollazzo. Te pensi di fare figli? Boh, credo di sì. Te? Se le fate le faccio anch'io. Con Nino? Ma sei matta, che non c'è nemmeno messi fa. Perché te invece? Ma che ti faccio vedere? Posso andare almeno alla festa di sabato? Te esci solo se ci sono io, è chiaro? E babbo quando torna? Non lo so. In fabbrica, ragazzi, come va? Bene, bene. Bene, bene a sé. La massa di stronzi ci sfruttano come bestie e poi vogliono pure farla amici. Allora, questo è un po' il clima, avete sentito, tra l'altro con questa musica che restituisce un sapore quasi western in un certo senso, e poi tutto sommato anche con una certa logica. Insomma, due ragazze di 14 anni, lo sfondo di questa fabbrica, padri assenti e che quando ci sono è peggio di quando non c'erano, fratelli che si spaccano la schiena a lavorare, con amori interrotti e mai ripresi, si va sempre un po' dentro e fuori dal sociale e dal privato, Boris, in questo film. Sì, io devo dire l'ho apprezzato molto il film, è passato alle giornate degli autori, mi è sembrato un tentativo di Mordini, che ha uno stile spesso rarefatto, difficile, che secondo me aveva sbagliato film con Provincia Meccanica, ma aveva intuito che bisognava raccontare certi luoghi e certi momenti. E secondo me con Acciaio mette a fuoco il suo cinema, che è un cinema particolare, è un cinema poco narrativo, poco verticale, un cinema che guarda e cerca di lavorare di empatia più che di ragionamento. Secondo me sfrutta qualche intuizione veramente buona, quella appunto di ambientarlo dove tra l'altro appunto ne parla anche la Vallone, cioè in questa Piombino che comunque con queste acciaierie è un panorama industriale che in questo momento dell'Italia siamo molto abituati a raccontare e a sentir raccontato. Ha tra l'altro come protagonista Michele Riondino, che si è speso tantissimo per l'Ilva, se vogliamo parlare dei cortocircuiti tra realtà e cinema che sempre più spesso accadono. Tra l'altro Michele Riondino straordinario, che a me sembra sempre più maturo, sempre più bravo, che buca lo schermo in una maniera incredibile. Bucano lo schermo però anche le due ragazzine esordienti, che vivono un rapporto di amicizia un po' ambiguo, di crescita in un posto difficile, in famiglie, tutti hanno famiglie con appunto padri assenti, famiglie matriarcali, ma di fatto famiglie di orfani, che anche se i genitori esistono non riescono ad essere punti di riferimento. E mi piacciono alcune scelte di Mordini, una delle quali per esempio è l'uso di Vittoria Puccini. Vittoria Puccini di solito il cinema lo vive quasi come icona, no? Quella bellezza celestiale, quasi irreale, diventa spesso un pretesto per farne quasi un oggetto, un bellissimo oggetto da venerare, e qui invece lui la rende molto terrena. È una ragazza che torna, che sì, si è un po' raffinata, che cerca di nuovo l'uomo che conosceva e che ormai è comunque molto lontano da lei. Mi sembra veramente uno squarcio di realtà che però non rinuncia ad essere anche lirico, ad essere anche arte, ad essere anche cinema. Qualche difetto ce l'ha sicuramente, non è facilissimo forse da seguire, però mi sembra un bel esempio di cinema italiano diverso. E allora, adesso dico la mia, nel senso che in parte, come dire, concordo con la versione di Boris, citando Panofsky, voglio dire, la versione di Boris, in parte no, nel senso che è vero che, come dicevi tu, il cinema di Mordini è un cinema poco narrativo e più emozionale, a mio modo di vedere in questo caso anche troppo, nel senso che troppo poco narrativo, nel senso che poi invece forse a raccontare una storia serve sempre uno schema, serve sempre una spina dorsale del racconto, servono momenti di alti, momenti di bassi, se vuoi raccontare una storia, perché quando parti da un libro di questo tipo è chiaro che parti anche da un racconto, non parti solo dalla volontà di emozionare e di dare sensazioni, e questo secondo me in certi momenti non si vede, in certi momenti c'è scollamento, forse magari anche in una sceneggiatura che non inseguiva forse proprio dall'inizio questo tipo di obiettivo. Dall'altra parte mi sembra che si indugi un po' troppo, per esempio nelle inquadrature sui corpi delle ragazze, sull'aspetto fisico, alla ricerca di una sensualità acerba che non giova e non serve alla parabola che si vuole raccontare. In certi momenti questo film è un po' come aprire una finestra, come hai detto tu, storie reali su uno sfondo più grande di noi, è come aprire una finestra su queste storie, però gli manca quell'unicità, gli manca quello scatto per dire mi hai anche raccontato una storia, mi hai anche raccontato una vicenda, no, me l'hai solo fatte vedere, mi hai aperto solo le porte su questa visuale. Sono invece d'accordo al 100% sulla prova degli attori, delle due ragazze molto brave, ma soprattutto di un Michele Riondino straordinario, per intensità mi sembra un po', facendo un paragone con un altro attore che ha avuto un percorso simile, quello che ha fatto a un certo punto Valerio Mastandrea, che ha intensificato il suo sguardo, si è prestato meglio a un clima drammatico, diciamo così, e in questo a Michele, che non è la prima volta che lo fa ovviamente, mi sembra riesca sempre meglio, e questo mi fa ben sperare anche per il futuro di questo attore, perché abbiamo bisogno di attori così nel cinema italiano. E questo comunque è Acciaio, vedete, è un film che fa discutere, quindi vale la pena vederlo, come sempre la più importante sicuramente delle proposte italiane, almeno per quanto riguarda poi la pregnanza del cast e anche la distribuzione in questo fine settimana. Adesso noi giochiamo ancora insieme, facciamo sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi prima di passare al prossimo film. Ho una cosa importantissima. Sai che Tyler ha fatto 69.000 asteroidi ieri, ma ci ha marciato davanti. Senti, il folletto te lo ricordi? Sei uno sbiellato, Elliot. No, Michael, è ritornato. E allora di che film si tratta? L'avete già capito, l'avete indovinato, il nostro indirizzo di posta elettronica è larosapurpurea@radio24.it, scriveteci il titolo e il vostro nome, cognome e indirizzo, provate a dirci di che film si tratta, se sarete i primi del sabato o della domenica riceverete poi il Blu-ray di questo film, più tardi avremo l'ultima possibilità. Altro giro di valzer, altro film, e ancora una volta cambio completo di clima, di situazione, di storia, con un titolo che è tutto un programma e si chiama, recita in questo modo: Sette psicopatici. Salve, è suo questo cane? Oh, santo cielo, le do la ricompensa, la ringrazio. Grazie, tantissimo. Ma non deve. Come vanno gli affari con i rapimenti dei cani? Un cane nuovo? Dove lo stavi portando, Charisse? Ho sempre amato Bonnie come se fosse mio figlio. Primo, non voglio avere quell'immagine nella mia testa. Secondo, potresti andare a riprendermi il mio cane. Mi hanno quasi ucciso perché hai rapito il cane sbagliato. Ma dici sul serio? Avete sentito, rapimenti di cani, cioè situazioni totalmente surreali. Sette psicopatici, il cast dice Colin Farrell, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Christopher Walken, Tom Waits, e mi fermo qui. Film super collettivo, sembrerebbe una mega produzione di Hollywood, magari lo è anche, perché a Hollywood non si sa mai come girano i soldi, da che parte arrivano, ma sicuramente è un film fuori dagli schemi, Boris. Assolutamente sì, io mi sono divertito come un pazzo, perché parliamoci chiaro, Sette psicopatici parte come un esercizio di stile, quasi lo dichiara, insomma, uno dei protagonisti è uno scrittore che cerca l'ispirazione, non la trova e prova a cercarla, insomma, in una specie di comunità, ha solo il titolo Sette Psicopatici e per sua fortuna li trova, diciamo. Se pensiamo agli attori che hai elencato e anche gli altri che sono nel cast, tutti prima o poi hanno interpretato uno psicopatico. Qua lo fanno tutti quanti. E la cosa divertentissima, secondo me, al di là delle situazioni surreali, diciamo che tutto si fonda su un sistema di rapimento di cani, poi da restituire per avere la ricompensa. Un atto criminale apparentemente secondario, che ha una sua genialità nel trovare, insomma, una redditività immediata, e che però può nascondere l'imprevisto nel fatto che, appunto, prendi il cane sbagliato. Noi sappiamo anche dalla cinematografia, tra virgolette, mafiosa, che i criminali spesso sono amanti dei cani, e quindi bisogna stare molto attenti al... non bisogna rapirli, i cani in generale, ma sicuramente bisogna stare attenti a quale si rapisce. E la cosa divertentissima è che Martin McDonagh è da Duna degli attori meravigliosi, straordinari, brevissimi, da Sam Rockwell a Woody Harrelson, e lo fa cercandoli diversi tra loro, cioè tutti con una vena di psicopatologia diversa, chiaramente cinematografica, chiaramente interpretativa. Quindi si passa da quella gentile, in qualche modo eterea, di Sam Rockwell a quella che conosciamo bene di Woody Harrelson, uno che ammazza senza problemi ma fino a un secondo prima ride e scherza. E poi lasciamelo dire, quando io vedo comparire Tom Waits al cinema la trovo una cosa quasi eccitante, onestamente, perché in qualche modo lui interpreta se stesso, e allo stesso tempo dentro quel viso, dentro quello sguardo disorientato, dentro quella personalità c'è tutto un artista che ci fa sognare da anni. Insomma, è un film che era difficile tenerlo tutto insieme, sia per i suoi talenti sia per la sceneggiatura assolutamente folle, ed è un film che alla fine risulta divertentissimo nonostante sia molto violento. Siamo molto chiari per chi, insomma, è debole di cuore, però è un film che poteva essere una brutta copia di Tarantino, e invece è un bel McDonagh. E allora, grazie Boris, questo è Sette Psicopatici, un'altra delle proposte sul grande schermo di questo fine settimana. Noi ci sentiamo alla prossima. Alla prossima settimana. E allora, linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme, tutto il cinema da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora, quarta parte della Rosa Purpurea, pronti con carta, penna e calamaio, iPad, tablet o telefonino. Insomma, segnatevi i nostri consigli, perché ne abbiamo per vedere film, grandi classici, film da recuperare in televisione gratis sul digitale terrestre, e poi ne abbiamo anche per andare in videoteca o nei megastore e comprarsi qualche DVD o qualche Blu-ray di quelli che meritano. Siamo in collegamento con gli amici di Film TV per cominciare con le segnalazioni fra i palinsesti cinematografici della prossima settimana, e con noi, come sempre, Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, ben ritrovati. Allora, oggi coppia americana assai diversa al suo interno, diciamo così, ma quando io ho visto nella lista Le Iene di Tarantino martedì 20 novembre, ho detto: Le Iene, quando passano, bisogna guardarle. Assolutamente. Le Iene martedì su Rai 4 alle 23.45 è l'esordio dopo un film incompleto di Quentin Tarantino, un regista che ormai è un classico e il cui cinema sin da subito si ciba di classici, ma anche soprattutto di materiale di scarto, di cinema minore, di B-movie. Le Iene è la storia di una rapina che non vediamo, ma di cui vediamo le conseguenze. È una sorta di versione di Cani arrabbiati di Bava, mischiata al cinema di Hong Kong, a Rapina a mano armata di Kubrick, alla tragedia vittoriana, e gli ingredienti potrebbero essere ancora tantissimi. Un film al maschile con un cast di grandi nomi che si sollazzano con i dialoghi pop di Tarantino ed ettolitri di sangue, disincanto e ironia. Un cult istantaneo. E infatti è stato così. Ricordo la prima visione al Festival di Locarno, l'anno si uscì da lì un po' cambiati tutti, eravamo chiaramente di fronte a qualcosa che sarebbe rimasto e che avrebbe cambiato il cinema da lì a poi. E allora, Le Iene, Quentin Tarantino, 20 novembre, 23.45, martedì su Rai 4. Siccome ci sono state da poco le elezioni americane, abbiamo pescato anche un film che racconta un po' di dietro le quinte, se vogliamo, di questo grande circo democratico che sono le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, ovvero Bobby. Sì, Bobby mercoledì su Rai Movie alle 21.10. È il 5 giugno del 1968 a Los Angeles ed è l'ultima notte di Robert Kennedy all'Ambassador Hotel, dove fu colpito da un colpo di pistola per poi morire. Tra i saloni e i corridoi si intrecciano le vite di 22 persone, che sono persone ordinarie ma anche stereotipi di diversi modi di vivere l'America, e soprattutto sono testimoni di un momento storico di grandissima drammaticità. Emilio Estevez guarda più a un classico come Grand Hotel che a un film come JFK di Stone, e decide di raccontare Bobby usando una prospettiva laterale, quindi non una biografia ma una sorta di ricognizione tra punti di vista, come se fossimo in un'opera di Altman. È un film imperfetto forse, ma con una passione civile e politica assolutamente contagiosa, che guarda al passato per far riflettere sul presente. E anche in questo caso, come tra l'altro nel caso delle Iene, abbiamo veramente una parata di star. E allora Bobby, giovedì 22 novembre alle 21.10 in prima serata su Rai Movie. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. Terza traccia del film misterioso di oggi. Tu dici che ha la capacità di modificare l'ambiente che lo circonda. È in gamma, comunica attraverso Elliot. Elliot sente i suoi pensieri? No, Elliot. Elliot sente i suoi sentimenti. E vabbè, Elliot, con Elliot abbiamo fatto tutto. La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta? Per il primo che risponderà esattamente il sabato e la domenica c'è pronto il Blu-ray di questo film, di questo capolavoro assoluto, un altro film che ha cambiato per sempre la storia del cinema. Ne parleremo la prossima settimana quando sveleremo i vincitori, come facciamo ora col gioco di settimana scorsa. Quella di tagliarvi la mano fu soltanto una monelleria. Sì, ma poi la gettò al coccodrillo e quella bestiaccia trovò così saporita la mia carne che da allora non fa che corrermi dietro con l'acquolina in bocca per la voglia di tutto il resto. Quel dannato coccodrillo, come cantava Bennato. Peter Pan, capolavoro classico Disney, che trova la strada dell'alta definizione in Blu-ray. Due donne, due ascoltatrici a vincere la copia in Blu-ray di Peter Pan sono Barbara Pecoraro di Cremona e Marta Parretta di Perugia. Saranno loro a ricevere il nostro premio. Il film della settimana scorsa, di cui parliamo con Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, questa edizione Disney veramente di prestigio per il classico del 53, è un restauro addirittura con risoluzione 4 volte superiore all'attuale alta definizione, immagini da riferimento, particolarmente interessante anche la sezione audio che, oltre alla traccia di TS con il ridoppiaggio italiano del 1986, offre per la prima volta quello originale italiano degli anni 50. Sono tanti gli extra, tra cui un making of di 16 minuti con estratti di disegni e bozzetti, le origini della storia, un focus sul personaggio di Trilli, uno speciale dell'epoca, canzone eliminata, un brano perduto, e c'è addirittura il commento audio di Roy Disney. E allora rifatevi un po' una verginità visiva con il cartoon di una volta, con Peter Pan, uno dei grandi classici della Disney. Adesso invece le segnalazioni, le novità in videoteca, partendo da un remake che però è qualcosa di più di un remake, perché quando passano 50 anni tra un film e l'altro forse qualcosa da dire anche in termini di stile rimane. Stiamo parlando di Quel treno per Yuma. Di tutta questa storia una cosa mi tormenta: per la gamba ho preso gli stessi soldi, $198.06, e la cosa strana è che, riflettendoci, cosa che ho fatto ultimamente, non mi hanno pagato per farmi da parte, ma perché potessero farsi da parte loro. Non mischiare passato e presente, Dan. No, Wade, adesso so come vanno le cose. Veterano dell'esercito dell'Unione, Dan Evans è tornato ferito dalla guerra civile, la sua famiglia messa in ginocchio da debiti e siccità, con il figlio maggiore convinto che il padre non abbia il coraggio di affrontare la difficile situazione. In seguito all'arresto del criminale Ben Wade, Dan coglie l'opportunità per risolvere i problemi economici, scortando il pericoloso prigioniero fino al treno che lo condurrà a forca sicura, un viaggio sino alla stazione ferroviaria lastricato di sangue. Buon remake del famoso western classe 1957 da Medusa Film Home Entertainment, la nuova edizione un video in Blu-ray in alta definizione di eccellente resa, audio DTS ad alta risoluzione, ricco e dinamico, sia italiano che inglese. Gli extra sono interessanti, un totale di circa 65 minuti, con scene tagliate, un focus sulle armi e la colonna sonora, una conversazione con il romanziere Elmore Leonard. E invece tutt'altro cinema, tutt'altra provenienza, questa puntata della Rosa Purpurea prima ha parlato, approfondito il cinema israeliano, adesso parliamo di cinema argentino, perché è uno dei film più interessanti degli ultimi anni, proprio dal Sud America, è stato Cosa piove dal cielo, un quentocino di Sebastian Borenstein. Sì, ti capisco. Deve essere difficile vivere con uno sconosciuto che non parla neanche la tua lingua. Stanotte mi sono messa a pensare e ho immaginato di trovarmi in Cina. Sola, persa, senza un soldo, senza parlare la lingua. Poi però ho subito pensato, per fortuna c'è Roberto. E Jun ha avuto la grande fortuna di incontrare te. Per me è molto difficile gestire certe cose, lo sai. Lo so. Per questo non mi dai neanche una possibilità. E io parlo la tua lingua. Scontroso e poco affidabile con clienti e fornitori, Roberto gestisce una ferramenta a Buenos Aires, un'esistenza senza scossoni, incapace di rapportarsi con l'universo femminile, appassionato di notizie bizzarre. Nella vita di Roberto entra senza bussare un misterioso asiatico, scaraventato da un taxi a bordo strada in cerca di un lontano zio. Roberto prova ad aiutarlo come può, incapace di abbandonare al suo destino il giovane che parla solo cinese. Simpatica commedia agrodolce, dai toni surreali, da CG on video, un DVD di qualità molto buona, sono molto efficaci le tracce Dolby Digital multicanale sia italiano che spagnolo. Peccato per l'assenza probabilmente voluta dei sottotitoli a traduzione dei dialoghi in cinese. Come extra abbiamo solo il trailer e una galleria foto. E grazie allora Claudio, appuntamento fra 7 giorni. Un saluto, a presto. E siamo arrivati in fondo alla nostra corsa. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, come sempre, unitevi alla nostra comunità della Rosa Purpurea, cercate su Facebook la Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e unitevi appunto alla nostra grande famiglia che ormai conta davvero centinaia e centinaia di ascoltatori, per ricevere in anticipo i temi della trasmissione, per poterla scaricare il lunedì in podcast, per poter dire la vostra quando volete sui film che avete visto, su quelli che vorreste vedere, su quello che va e non va nel cinema. E allora Facebook, la Rosa Purpurea, grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia, un saluto da Franco D'Assisti.